schifo, signor, a queste labbra apria che mordano pregi, ma ciardo in vetta destra, ora permetti. Il te baciar la faccia della morte, del giudice la mano, baciar più non è degno. Che implacabile con che fiero sdegno, bacerò in essa e posso mirar più di quel volto, o temerario cor, la man baciasti, e da me non concesso il don rubasti. Cielo, porgili a Eva! Insidioso bacio, con vigor penetrante, per l'amante le vene al cor sei giunto, e introduci pietà. Dov'è il rigore? Manlio, Servilia, amore! Intenerito io sono, e quasi viene il pianto a queste luci. Figlio, l'amor di padre io desto in seno, ma perché non oblio quel della legge, e perché andare impuni contendo i gravi errori? Se ti niegai la mano, queste braccia ti do. Fattene e mori! Crudele, oh, stringa le menti! La grazia per cui venti, oh, Dio, t'ascolta! Servil qui svita l'adorato Germano, e che la pace già ti portò. Innocente colpa di ser latina, assumi con occhio di pietà mira i suoi casi, vade in un porto e sia degna del tuo favor. A Servilia di Tito anche l'amor prometto, se non del figlio avrà del padre il letto. Al carcere tornate il prigioniero, vieni o lucio.